Terzo anello, ad alta voce. Il Conte di Montecristo, di Alexandre Dumas. La finestra presa in affitto a un prezzo senza dubbio esorbitante si trovava al secondo piano del grande palazzo situato fra Via del Babuino e il Pincio. «Mi sembrava», disse Franz al Conte, «che aveste parlato di una sola esecuzione». «Vi ho detto la verità», rispose egli con freddezza. «Però là ci sono due condannati», disse Franz. «Sì, ma di quei due condannati uno è sul punto di morire. L'altro vivrà ancora molti anni. Ma se deve arrivare la grazia, non c'è più molto tempo da perdere. E appunto, eccola che arriva. Guardate», disse il conte. Difatti, nel momento in cui Peppino giungeva ai piedi del patibolo, un penitente, che sembrava essere in ritardo, ruppe la fila senza che i soldati ostacolassero il suo passaggio e, venendo avanti, porse al capo della confraternita un foglio piegato in quattro. Lo sguardo ardente di Peppino non aveva perso alcun dettaglio. Il capo della confraternita aprì il foglio, lo lesse e alzò la mano. «Il Signore sia benedetto e Sua Santità sia lodata!» disse con voce alta e chiara. «È fatta grazia della vita a uno dei condannati!» «Grazia! Grazia!» gridò il popolo a una sola voce. «C'è la grazia!» Alla parola grazia, Andrea si scosse e alzò la testa. «Grazia per chi?» gridò. Peppino restò immobile, muto e ansante. «È la grazia della pena di morte per Peppino, detto Rocca Priori!» disse il capo della confraternita e passò il foglio nelle mani del capitano dei carabinieri che, dopo averlo letto, glielo restituì. «Grazia per Peppino!» gridò Andrea, del tutto ridestato dallo stato di torpore in cui sembrava essere immerso. «Perché grazia per lui e non per me? Noi dovevamo morire insieme! Mi era stato promesso che sarebbe morto prima di me! Non avete il diritto di farmi morire da solo! Non voglio morire solo! Non la voglio!» E afferrò le braccia dei due preti, torcendosi, urlando, ruggendo e facendo sforzi insensati per rompere le corde che gli legavano le mani. Il carnefice fece un segno ai suoi due aiutanti, i quali balzarono dal patibolo e si impadronirono del condannato. «Guardate! Guardate!» disse il conte afferrando ciascuno dei due giovani per la mano. «Guardate, perché, parola mia, è una cosa curiosa. Ecco un uomo che era rassegnato alla sua morte, che camminava verso il patibolo, che andava a morire come un vile, è vero, ma pure andava a morire senza resistenza e senza recriminazione. Sapete che cosa gli dava un po' di forza? Sapete cosa lo consolava? Sapete cosa gli faceva affrontare il supplizio con rassegnazione? Un altro che condivideva la sua angoscia, un altro che andava a morire come lui. Conducete due montoni o due buoi al macello e a uno di questi fate intendere, se vi riesce, che il suo compagno non morirà. Bene, il montone bellerà di gioia, il bue muggirà di piacere. Ma l'uomo, l'uomo che Dio ha creato a sua somiglianza, l'uomo a cui Dio ha imposto come prima, unica, suprema legge l'amore del prossimo, l'uomo a cui Dio ha dato la parola per esprimere il pensiero, quale sarà il suo primo grido quando saprà che il suo compagno è salvo? O una bestemmia! Onore all'uomo, questo capolavoro della natura, questo re del creato!» E il conte scoppiò a ridere. Un riso terribile che fece capire che egli aveva orribilmente sofferto per poter arrivare a ridere in tal modo. Intanto la lotta continuava ed era qualcosa di tremendo a vedersi. I due aiutanti portavano Andrea sul patibolo. Tutto il popolo aveva preso partito contro di lui e 20.000 voci gridavano all'unisono: «A morte! A morte!» Franz si fece da parte, ma il conte lo riprese per il braccio e lo trattenne davanti alla finestra. I due aiutanti avevano portato il condannato al patibolo e là, malgrado i suoi sforzi, i suoi morsi, le sue grida, lo avevano costretto a mettersi in ginocchio. Intanto il boia si era messo di lato con la mazza sollevata. Poi, a un suo cenno, i due aiutanti si spostarono. Il condannato volle rialzarsi, ma prima di averne avuto il tempo la mazza si abbatté sulla sua tempia sinistra. Si udì un rumore sordo e cupo. Il condannato cadde come un bue, con la faccia a terra, e poi, per il contraccolpo si rivoltò sulla schiena. Allora il boia lasciò cadere la mazza, prese il coltello dalla cintura e con un colpo solo lo sgozzò. Stavolta Franz non poté resistere più a lungo. Si gettò all'indietro e andò a cadere mezzo svenuto su una poltrona. Albert, con gli occhi chiusi, rimase dritto, ma aggrappato alle tende della finestra. Il conte era in piedi e trionfante come l'angelo ribelle. Quando Franz tornò in sé, vide Albert pallido che beveva un bicchiere d'acqua, mentre il conte stava provandosi un vestito da pagliaccio. Gettò un'occhiata alla piazza. Tutto era sparito. Patibolo, carnefici e vittime. Restava solo la folla, numerosa e allegra. La campana di Montecitorio suonava a distesa per annunciare l'apertura del carnevale. Una moltitudine di maschere accorreva da ogni dove, uscendo dalle porte, correndo fuori dalle finestre. Le carrozze sbucavano da tutti gli angoli di strada, piene di Pierrot, di Arlecchini, di Domino, di Marchesi, di Trasteverini, di personaggi grotteschi, di cavalieri, di contadini, tutti che gridavano, gesticolavano, lanciavano uova piene di farina, coriandoli e mazze di fiori, aggradendo con parole, con oggetti, amici e stranieri, conoscenti e non, senza che alcuno avesse il diritto di lamentarsi, senza che alcuno facesse altro che ridere. Franz e Albert continuavano a sentire gli effetti di ciò che poco prima avevano visto, ma a poco l'ebbrezza generale li vinse e provarono uno strano bisogno di prendere parte a quel rumore, a quel movimento, a quella vertigine. Una volta vestiti scesero. La carrozza aspettava sulla porta piena di corianduli e di mazze di fiori. Si misero in fila. Una manciata di coriandoli gettata da una carrozza vicina colpì Albert, che si mise allora a tempestare galantemente di fiori una carrozza carica di contadine romane, ferma come la loro in una di quelle soste così comuni quando si sta in fila. Disgraziatamente per lui la fila riprese ad avanzare e procedeva verso Piazza del Popolo, mentre la carrozza che aveva attirato la sua attenzione risaliva verso Palazzo Venezia. «Ah, mio caro!» egli disse a Franz. «Non avete visto?» «Cosa?» chiese Franz. «Ma come cosa? Quel calesse carico di contadine romane?» «No!» «Ebbene, sono sicuro che vi sono delle affascinanti signore!» «Che peccato che siate mascherato, mio caro Albert!» disse Franz. «Sarebbe stato il momento di rifarvi di tutte le vostre delusioni amorose!» «Oh!» egli rispose, metà ridendo e metà convinto. «Spero bene che il carnevale non trascorrerà senza qualche compenso.» Del resto, Albert non si era ingannato nelle sue previsioni. L'indomani Franz lo vide entrare con un solo balzo nella camera, sventolando trionfalmente un quadratino di carta che teneva per uno degli angoli. «Leggete», Questa parola fu pronunciata con un tono di voce impossibile a descriversi. Franz prese il biglietto e lesse: «Martedì sera alle 7 scendete dalla vostra carrozza davanti a Via dei Pontefici e seguite la contadina romana che vi strapperà il vostro moccoletto. Quando arriverete al primo gradino della chiesa di San Giacomo, fate in modo che lei possa riconoscervi e annodate un nastro rosa sulla spalla del vostro costume da pagliaccio. Da oggi sino a quel momento non mi rivedrete più. Costanza e discrezione». «Allora», chiese a Franz quando ebbe terminato la lettura, «che ne pensate, mio caro?» «Penso», rispose Franz, «che la cosa stia prendendo la piega di un'avventura molto ma molto piacevole». Finalmente arrivò martedì, l'ultimo e il più chiassoso giorno del carnevale. Più il giorno avanzava e più il tumulto diventava grande. Non c'era su tutte quelle strade, in tutte quelle carrozze, a tutte quelle finestre una bocca muta, un braccio ozioso. Era un vero uragano umano, composto di un tuono di grida e di una tempesta di coriandoli, di mazzetti di fiori, di uova e di arance. Soltanto un nuovo elemento di clamore e di movimento si era mescolato a quella folla: l'entrata in scena dei mercanti di moccoli. Tutti si affrettarono a comprare i moccoletti e Franz e Albert fecero come tutti gli altri. La notte si avvicinava rapidamente e già al grido «Moccoli! Moccoli!», ripetuto dalle voci stridule di un migliaio di venditori, due o tre stelle cominciarono a brillare al di sopra della folla. Fu come un segnale. In 10 minuti 50.000 lumi scintillarono, discendenti da Palazzo Venezia verso Piazza del Popolo e risalenti da Piazza del Popolo a Palazzo Venezia. Quella corsa folle e fiammeggiante durò circa 2 ore. Via del Corso era rischiarata come in pieno giorno. Si distinguevano le sembianze degli spettatori fino al terzo o al quarto piano. Ogni 5 minuti Albert guardava l'orologio. Finalmente segnò le 7. I due amici si trovarono proprio all'altezza di Via dei Pontefici. Albert saltò fuori dalla carrozza con il suo moccolo in mano. Franz seguì con gli occhi Albert e lo vide mettere il piede sul primo scalino. Poi, quasi subito, una maschera che portava il ben noto costume della contadina romana allungò il braccio e gli tolse il moccoletto senza che lui, questa volta, facesse la minima resistenza. All'improvviso si udì il suono della campana che dà il segnale della chiusura del carnevale. E nel medesimo istante tutti i moccoli si spensero come per incanto. Si sarebbe detto che un solo e immenso colpo di vento vi avesse soffiato sopra. Franz si ritrovò nell'oscurità più profonda. Tutte le grida cessarono. Il carnevale era finito. Thank you. Alle 11 Albert non era ancora ritornato. Franz si vestì e uscì dall'albergo. Fatti pochi passi, vide un uomo in piedi in mezzo alla strada, avvolto in un grande mantello nero. Andò verso di lui, non dubitando che potesse essere un messaggero di Albert. Ma rimase meravigliato che questi gli rivolgesse per primo la parola. «Vostra Eccellenza alloggia all'albergo di Pastrini?» «Sì». «Come si chiama, Vostra Eccellenza?» «Barone Franz d'Épinay?» «È precisamente a Vostra Eccellenza che è indirizzata questa lettera». La lettera era scritta e firmata per mano di Albert. Franz la lesse due volte. Tanto era lontano dall'aspettarsi ciò che conteneva. Eccola riportata testualmente. «Caro amico, appena avrete ricevuto la presente, abbiate la compiacenza di prendere nel mio portafoglio, che troverete nel cassetto quadrato del mio scrittoio, la lettera di credito. Unite la vostra se non basta. Correte da Torloni e da lui ritirate subito 4.000 piastre che consegnerete alla torre della presente. È urgente che questa somma mi sia inviata senza alcun ritardo. Non insisto oltre. Contando su di voi come voi potreste contare su di me. Il vostro amico Albert di Morcerf». Sotto quelle righe erano scritte da mano sconosciuta le seguenti parole: «Se alle 6 della mattina le 4.000 piastre non sono nelle mie mani, alle 7 il conte Alberto avrà cessato di vivere. Luigi Vampa». Non c'era tempo da perdere. Corse in camera, aprì lo scrittoio e nel cassetto indicato trovò il portafoglio. Ma vi erano solamente 3.000 piastre. Ne occorrevano altre 800. All'improvviso gli balenò in mente un'idea luminosa. Pensò al conte di Montecristo. Franz attraversò il pianerottolo. Un domestico lo introdusse dal conte. Si trovava in un salottino che Franz non aveva ancora visto, con divani su tutti e quattro i lati. Il conte gli andò incontro. Quale buon vento vi conduce da me a quest'ora?» gli domandò. «Venite per caso a chiedermi di cenare insieme? Per Dio, sarebbe davvero una gentilezza da parte vostra!» No, vengo a parlarvi di un affare molto grave». Franz gli porse la lettera di Albert. «Leggete», gli disse. Il conte lesse la lettera. «Avete visto il postscriptum?» «Sì, lo vedo bene». «Che ne dite?» domandò Franz. «Avete la somma che vi viene richiesta?» «Sì, meno 800 piastre». Il conte andò al suo scrittoio, lo aprì e ne estrasse un cassetto pieno d'oro. «Spero», disse a Franz, «che non vorrete farmi il torto di rivolgervi ad altri che a me. Come vedete, al contrario, sono venuto direttamente da voi», disse Franz. «E ve ne ringrazio. Prendete». E fece segno a Franz di attingere al cassettino. «Ma è proprio necessario mandare questa somma a Luigi Vampa?» chiese il giovane, fissando a sua volta lo sguardo sul conte. «Diamine!» disse. «Giudicate voi stesso. Il post-scriptum parla chiaro. Mi sembra che se voleste prendervi la pena di cercarlo, forse...» «Trovereste un mezzo che semplifichi molto la trattativa», disse Franz. «E quale?» chiese il conte meravigliato. «Per esempio, se andassimo insieme a trovare Luigi Vampa, sono sicuro che non vi negherebbe la libertà di Albert». «A me? E quale influenza volete che abbia io su quel bandito?» «Non gli avete appena reso uno di quei favori che non si dimenticano più?» «E quale?» «Non avete salvato la vita a Peppino». fece il conte. «E chi ve lo ha detto?» «E che vi importa, lo so». Il conte rimase per un momento in silenzio, con la fronte corrugata. «E se andassi a trovare Vampa, voi mi accompagnereste?» «Se la mia compagnia non vi fosse troppo sgradita». «Ebbene sia. Il tempo è bello. Una passeggiata nella campagna di Roma può solo farci bene». «Conoscete le catacombe di San Sebastiano?» «No, non vi sono mai disceso. Mi ero tuttavia ripromesso di andarci un giorno o l'altro», disse Franz. «Ebbene, ecco trovata l'occasione. E sarebbe difficile trovarne una migliore». La strada percorsa dalla carrozza era l'antica via Appia, tutta costeggiata da sepolcri. Poco prima del circo di Caracalla, la carrozza si fermò. Franz e il conte scesero. Dietro a un intrico di cespugli e in mezzo a diverse rocce si scorgeva un'apertura per la quale un uomo poteva appena passare. Il conte di Montecristo fu il primo a scivolare dentro questa fenditura. Ma appena ebbe fatto qualche passo, il passaggio sotterraneo si allargò. Allora si fermò, accese la torcia e si voltò per vedere se Franz lo stava seguendo. Il terreno si abbassava con un'inclinazione dolce e si allargava mano a mano che si addentravano. Ciò nonostante, Franz e il conte erano obbligati a camminare curvi e avrebbero fatto fatica a passare l'uno accanto all'altro. In tal modo fecero circa 150 passi, quindi si fermarono al grido «Chi va là?» e nello stesso tempo videro in mezzo all'oscurità brillare la canna di una carabina al chiarore della torcia. «Amici!» rispose il conte. Il conte mise la mano sulla spalla di Franz e disse: «Volete vedere un accampamento di banditi immersi nel sonno?» «Certamente», rispose Franz. «Ebbene, venite con me». Avanzarono in silenzio. Il conte guidava Franz come se avesse avuto la singolare facoltà di vedere attraverso le tenebre. Lo stesso Franz, del resto, distingueva più facilmente il cammino mano a mano che si avvicinava a quei riflessi che servivano da guida. Tre arcate, una delle quali al centro fungeva da porta, creavano un passaggio. Da una parte si aprivano sul corridoio dove si trovavano Franz e il conte e dall'altra su una grande stanza quadrata, tutta circondata da nicchie simili a quelle di cui abbiamo già parlato. In mezzo a quella stanza si ergevano quattro pietre che un tempo erano adibite ad altare, come indicava la croce che ancora le sormontava. Una sola lampada, posta sopra una colonna spezzata, illuminava con una luce fioca e tremula la strana scena che si presentava agli occhi dei due visitatori nascosti nell'ombra. Un uomo era seduto, con il gomito appoggiato a quella colonna, e leggeva voltando le spalle alle arcate, attraverso le cui aperture i nuovi arrivati lo guardavano. Era il capo della banda, Luigi Vampa. Intorno a lui, sistemati a caso, avvolti nei mantelli o addossati a una specie di banco di pietra che girava tutt'intorno alle pareti del columbarium, si distinguevano una ventina di briganti. Ciascuno teneva la propria carabina a portata di mano. Sul fondo, silenziosa, appena visibile e simile a un'ombra, si scorgeva una sentinella che passeggiava su e giù davanti a una specie di apertura, distinguibile solo dal fatto che in quel punto le tenebre erano più fitte. Appena il conte credette che Franz avesse ammirato a sufficienza quel quadro pittoresco, portò l'indice alle labbra per raccomandargli il silenzio. E salendo i tre scalini che dal corridoio portavano al columbarium, entrò nella camera attraverso l'arcata centrale e avanzò verso Vampa, il quale era tanto profondamente immerso nella lettura che non udì minimamente il rumore dei passi. «Chi è là?» gridò la sentinella, che meno assorta vide al chiarore della lampada una specie di ombra ingrandirsi dietro il capo. A quel grido, Vampa si alzò di scatto, estraendo nello stesso tempo dalla cintura una pistola. In un attimo tutti i banditi furono in piedi e 20 canne di carabina furono puntate sul conte. «Ebbene!» disse questi tranquillamente, con voce del tutto calma e senza che uno solo dei muscoli del viso si contraesse. «Ebbene, mio caro Vampa, mi sembra un'accoglienza eccessiva per ricevere un amico.» «Giù le armi!» gridò il capo, dando l'ordine con una mano, mentre con l'altra si toglieva rispettosamente il cappello, quindi volgendosi verso il singolare personaggio che dominava tutta quella scena. «Perdono, signor conte!» disse. «Ero così lontano dall'aspettarmi l'onore di una vostra visita che non vi avevo riconosciuto.» «Sembra che voi abbiate poca memoria in tutto, Vampa», disse il conte, «e che non solo vi scordiate della fisionomia delle persone, ma anche delle condizioni pattuite.» «E quali condizioni ho potuto dimenticare, signor conte?» domandò il bandito, da uomo che ha commesso un errore e desidera solo ripararlo. «Non avevamo convenuto», disse il conte, «che sarebbe stata per voi sacra non solo la mia persona, ma anche quella di tutti i miei amici?» «E in che cosa ho mancato al padre? C'è lei!» «Questa sera voi avete rapito e trasportato fin qui il visconte Albert di Morcerf. Ebbene», continuò il conte con un tono che fece rabbrividire Franz, «questo giovane è uno dei miei amici. Questo giovane alloggia nello stesso albergo in cui sto io. Questo giovane per 8 giorni è andato per via del corso nella mia carrozza e tuttavia, ve lo ripeto, lo avete rapito, lo avete trasportato qui e», aggiunse il conte estraendo la lettera dalla tasca, «gli avete imposto un riscatto come se fosse uno qualunque.» Thank you.